Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Buonasera a tutti, Stefano Dainese che vi parla, inizia Rock Wave questo lunedì, lunedì è sempre in mia compagnia. Questa sera abbiamo un musicista, è qui in rappresentanza della sua band che si chiama Love Spoon, lui si chiama Giovanni. Piacere, Giovanni. Il cognome non lo diciamo? No, non lo diciamo, sennò troppi si faranno delle domande. No, è un cognome famoso, ma anche, diciamo, in certi casi tristemente famoso. Esatto. È un cognome che suscita polemiche. Love Spoon, che hanno realizzato un album che si intitola Love Spoon, è abbastanza facile intuire che si tratti del disco d'esordio, giusto? Assolutamente sì. Anche perché siete molto giovani. Insomma, su questo... Molto più giovani. Siamo tutti sopra la trentina, quindi non più giovanissimi. Eh? Ah, ok. Un debutto allora un po' maturo, sì. Diciamo così. E questa sera Giovanni ci presenterà alcune canzoni dal vivo, naturalmente in versione acustica, e poi parleremo naturalmente dell'album, come nostra tradizione in questi appuntamenti che a noi piacciono così tanto. E, come al solito, per inquadrare, darvi un'idea appunto di cosa fanno i Love Spoon quando sono tutti insieme, tutti e quattro siete, giusto? Siamo in quattro, sì. Ok, ci ascoltiamo un primo estratto dall'album. Il brano si intitola Boogie of My Heart. Benvenuti a tutti a Rock Wave e buon ascolto. Boogie of My Heart, che fra l'altro forse è il pezzo più sguaiato del disco, Assolutamente. Cioè, si sente proprio che è un pezzo in cui vi siete molto lasciati andare e suona, diciamo che l'attitudine mi ricorda un po' quella dei vecchi Rolling Stones. Sì, assolutamente. Alla fine è uno standard blues, quel pezzo lì, perché è un classico l'Aremi, quindi è proprio un boogie. E quindi sia nel testo che proprio nella canzone, nella musica, abbiamo voluto rendere l'istantaneità di quello che può essere quella canzone proprio. Bene, allora andiamo con ordine e parliamo un attimo di voi come persone, prima che come band. L'accento parla abbastanza chiaro, tu Sì. vieni un po' da sud di Padova, ma non troppo, giusto? Esatto, sì. Esattamente di dove siete. Allora, diciamo che il gruppo ha, tra virgolette, sede a Ravenna. Ravenna perché io da poco vivo a Ravenna, l'altro chitarrista Matteo, coautore di molti pezzi, vive a Ravenna. Il batterista invece vive a Bologna e il bassista vive vicino a Ferrara, ad Argenta, Filo d'Argenta. Di conseguenza le prove abbiamo incominciato a farle a Ravenna e quindi fondamentalmente siamo un gruppo di Ravenna. Ci piace definirci anche gruppo di Ravenna perché siamo un po' figli di quello che è nato in questi ultimi anni a Ravenna, nel senso che quando ero un pizzico più giovane, ma già patentato, quindi potevo prendere la macchina per andare a vedere i miei concerti. Per vedere un concerto dovevo fare dei chilometri. Ultimamente ci Dillo vado anche in bicicletta perché ci sono dei bei concerti a Ravenna, ne sono passati tanti. Io ho avuto la possibilità da musicista di ascoltarmi tanti concerti, che secondo me è una cosa basilare, e quindi un po' quello che suoniamo è anche quello che abbiamo ascoltato, da disco ma anche da concerto. a me. Ma essendo di città diverse, come vi siete conosciuti voi su Ma Facebook? fondamentalmente le storie sono incredibili, nel senso che in tre frequentavamo lo stesso liceo, quindi si parla di 15 anni fa, 20 anni fa, tutti incominciavamo a suonare in quel periodo, non avevamo mai suonato assieme, ci siamo sempre, tra virgolette, rincorsi, mentre l'altro chitarrista era il chitarrista di un gruppo in cui io suono ancora, un altro gruppo però, Puoi anche anche dire il noi. nome. Les Bondage, facciamo del punk rock fondamentalmente. E non avevamo mai suonato assieme. Lui, quando finì di suonare col gruppo, subentrai io. Un giorno io ho questi pezzi qua, che evidentemente non potevo proporre a un gruppo punk rock, garage. E quindi la prima persona a cui chiesi fu lui. Ci trovavamo in sala prove. Lui da chitarrista andò alla batteria, io alla chitarra, accennammo un pezzo e da lì decidemmo di mettere su la bandaccia, insomma. Bene, e questo quanto tempo fa succedeva? Fine 2009, diciamo primi 2010, era inverno, faceva molto freddo, la sala prove non era riscaldata, quindi andavamo là con i guanti Beh, è un e buon tutto sistema per quanto. andarci poi belli tosti, perché Sì, se era assolutamente. l'unica forma di Ma riscaldamento, questo disco è magari le ballate le veramente. lasciavate indietro. Questo disco è figlio proprio delle prime 15 prove, già lì avremmo capito che saremmo riusciti a fare un disco. Tant'è che quegli 11 pezzi lì sono proprio i primi 11 pezzi che ci sono venuti proprio fuori. Cioè non abbiamo scartato nulla e preso in più nulla. Quelli sono gli 11 pezzi che abbiamo suonato e con quelli abbiamo voluto fare il disco, perché il disco viveva di quel periodo. Quindi sì, è un progetto, diciamo, anche temporale e geografico preciso, insomma, Sì, se siete assolutamente. figli della stessa ispirazione. Bene, posso chiederti di dare voce alla chitarra adesso? Sì, ci proviamo. Beve un No, non ci goccetto. proviamo, ci provi tu, perché io faccio solo l'ascoltatore, lo dico perché sennò gli ascoltatori potrebbero spaventarsi. Ok, adesso faccio un pezzo. Lo proverò a accennare anche con l'armonica. Solitamente in questo pezzo non la suono io l'armonica, e si capirà. Però essendo da solo, insomma, ci provo a fare un po' le veci anche dell'altro chitarrista. Questo è in assoluto il primo pezzo che proposi a Matteo, e fu proprio il pezzo di cui ti parlavo prima, nel senso che lui lo accennò alla batteria. Ah, bello, carino, un bel ritmo, proviamo. Lui la batteria non lo sapeva praticamente suonare, venne fuori una roba inascoltabile, e poi da qui comunque è nata Carry Love, Carry Love, Amore Riccio. immaginatevi la mia ragazza che tipo di capelli può avere, capelli ricci, parla dell'inizio della storia che ho avuto con lei, fondamentalmente. E anche l'inizio della band e anche l'inizio del disco, perché il È pezzo l'inizio di che tutto. apre l'album, questo Carly Love, lo sentiamo qui dal vivo dalla voce di Giovanni. Carly Love, hello signora, more rather than fall from the cave of my heart. I wake up on red of pain, a long gray train has cut from my name. I Oh, Carly Love, under the door, remember the rain, my head in your hand. I wake up on red of pain, a long gray train has cut from my name. I knew that I must say goodbye. I knew that I must say goodbye. I knew that I must say goodbye. I knew that I must say goodbye. But as the engine driver of my heart. Questa era Carly Love, l'amore riccio, appunto. Amore riccio. Ma anche tu sei riccio. Anch'io lo sono diventato. Lo sono diventato a forza di suonare, a forza di cercare da suonare e a forza di cercarmi strada in questo campo. Vengono i capelli ricci facendo queste cose. Mi pare un po'... visto che non ci sono, citiamo anche gli altri componenti della band, che sono Matteo Lamargese, che hai citato prima, esatto. Voce, chitarra, fisarmonica. E autore di vari pezzi di quel disco lì. Sì, perché dopo ci sono alcuni pezzi scritti insieme anche. No, uno solo scritto insieme, mentre tre li ha scritti da solo, quindi non è che collaborate tantissimo. No, collaboriamo nel senso che prima che la canzone abbia... il suo finale, nel senso, sia pronta, lavoriamo tantissimo, ci scambiamo le idee. Diciamo che in quel pezzo lì io avevo già la struttura della canzone, non ero mai riuscito a trovare un testo adatto e gli dissi perché non lo fai tu il testo, poi variamo un pizzico la canzone, quella diciamo che proprio è nata in due. Il resto collaboriamo, nel senso che comunque la canzone finita è il lavoro veramente di tutti e quattro, neanche di tutti e due, di tutti e quattro. Perché le canzoni vengono proposte in sala prove acustiche, così come l'avete sentita ora. Però poi, quando vuoi fare un disco con una band, farci suonare gli altri strumenti, i pezzi si modificano e non devono essere così semplici, così immediati. Magari serve una gestazione molto più lunga. E in quello sono bravissimi... Nicola, il bassista, Nicola Medri, esatto, e Luca Donigaglia invece il nostro batterista di Bologna, che veramente fanno un lavoro di cesello in sala prove, si arrabbiano con noi, no, questo pezzo deve fare così, e mettono un po' in discussione tutto quello che io pensavo fosse già un pezzo finito. Beh, vedo che Nicola si è occupato anche dell'artwork, assolutamente, è lui l'artista del della gruppo. Grafica. Sì, si è fatto tutto lui. Strano, un bassista che abbia queste cose. Di solito i bassisti nelle band, no? Sono sempre quelli un po'. Ah, ma lui quando fa i live sta proprio da parte, si mette là nell'angolino, sembra, ma neanche che ci sia. Alla John Entwistle, diciamo. Assolutamente. però poi ci dà una gran mano in tutto il resto. Bene, il disco è autoprodotto? Il disco è autoprodotto un po' perché è la volontà nostra e un po' perché non abbiamo trovato etichette veramente interessate, diciamo. Perché etichette interessate ce n'erano, però l'equivalente di far uscire un disco con le etichette che avevamo trovato era come farlo uscire autoprodotto. Quindi abbiamo scelto l'autoproduzione perché era un prodotto nostro dall'inizio alla fine. Di questa cosa non ci campiamo assolutamente e mai ci camperemo, e quindi volevamo non mettiamo limiti alla divina provvidenza, va bene, insomma. Comunque volevamo fosse totalmente nostro, gestito totalmente da noi. Abbiamo fatto un sacco di live, ci siamo fatti i nostri soldini per poterci registrare il disco, promuoverlo e tutto quanto, e siamo contenti così. Chi fa da sé fa per tre, dice il famoso proverbio, giusto? Allora, ci ascoltiamo un altro estratto dall'album, che è un brano che si intitola Valentine. Non è che la tua ragazza dei capelli ricci si chiama anche Valentina, eh? Questa è una canzone dell'altro chitarrista, ah, okay, quindi io non c'entro niente nella storia della canzone. Mi pare giusto. Ci ho messo solo il riff, però. Che ognuno abbia la sua ragazza, le chitarre magari le potete avere in comune, ma altre esatto. cose. Allora, Valentine, sempre dai Love Spoon. Yeah. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. E mentre andava questa Valentine, qua in studio si discuteva di influenze musicali, c'era un intro alla Yardbirds, il classico garage rock anni 60, ma poi i suoni sono più vicini, diciamo, a certa sensibilità indie americana degli anni 80, però Giovanni mi faceva notare che è una cosa un po' non voluta, ma che viene forse dal subconscio, o che nasce, chissà, per una combinazione di stili e di persone che automaticamente creano questo effetto. Penso che sia così che succede. Assolutamente sì. Voi non vi siete seduti al tavolino e avete detto: cerchiamo di suonare alla Green on Red, ad esempio. No, assolutamente, cioè. Assolutamente. E neanche, ovviamente, abbiamo cercato di essere il gruppo più innovativo di questo mondo, nel senso, sappiamo benissimo che siamo un gruppo che fa delle canzoni, tra virgolette, classiche, rimane entro certi standard, però cerca di farlo a modo suo, imponendo il proprio gusto musicale, che per noi è molto importante, ecco. Però no, nulla è stato deciso a tavolino, anzi, proprio nulla è stato scartato. Anzi, inizialmente la paura era quella che tutto si riversasse un po' in qualcosa di più pop. Poi alla fine ci siamo detti: ma magari fosse più pop, nel senso, sono stato abituato fin da piccolino, io sono rock, io sono punk, io sono rock, vedendo in pop una parola brutta, quando invece adesso per me è una delle parole più belle. Ma non perché si debba fare del pop, perché secondo me la canzone con un buon ritornello, la ricerca di una certa armonia nella canzone, ecco, secondo me quella è la definizione di pop. Io intendo così il pop. In Nirvana sono stati un ottimo esempio, esatto. Tanto per dire, insomma, sicuramente nessuno poteva dire che fossero un gruppo che aveva dei suoni che accarezzavano la gente o che fossero stati così edulcorati. Però quando si scrive una bella canzone, poi la puoi suonare in mille modi diversi. C'è una bella versione di Smells Like Teen Spirit che fece Tori Amos per voce e pianoforte, che è incantevole. Sì. Perché è una bella canzone, insomma, la puoi suonare come vuoi. Quindi capisco perfettamente cosa intendi dire col discorso del pop. Ho perso un attimo il filo qua. Controlliamo anche l'orario, direi che possiamo andare con un altro brano dal vivo, se sei pronto. Va bene, adesso facciamo Down to the Hall. Down to the Hall è l'ultimo pezzo del disco, un pezzo a cui io tengo tantissimo, che nei concerti non volevamo fare perché comunque lo facevo solo io con la chitarra e basta. Solitamente con la chitarra elettrica, con il reverbero a 10 alla Suicide. Sì, inizialmente lo usavamo un po' come riempitivo, nel senso che avevamo talmente pochi pezzi da fare live, dobbiamo fare anche questo, lo facciamo, ma non perché non ci piacesse, perché avevamo l'idea del gruppo e di conseguenza dall'inizio alla fine doveva essere quel muro di suono che veniva fuori, quindi questa cosa qua ci sembrava non conciliasse molto, desse una pausa un po' troppo grossa al pezzo. Poi invece ci siamo affezionati talmente tanto al pezzo che a volte lo usiamo addirittura come inizio del concerto. Incomincio io con la canzone e poi dopo attacchiamo tutti. Nel disco secondo me è venuto molto bene. È chitarra, è voce, un sacco di riverbero ovunque, nell'ambiente, nella chitarra, nella voce. Ed è un pezzo nato su un letto con una chitarra acustica. Ok, qui non abbiamo il riverbero, ma insomma, non potremmo lo stesso goderci questo brano. Down to the Hall, sempre da Love Spoon, diciamo, in rappresentanza di Love Spoon, Giovanni. Blu Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. Mm-hmm. baby, don't talk. Your face is angry dress. Ooh, open your eyes and walk step to step. Ooh. Ooh. Blind trash can of my heart. Ooh, down to the old, not making a sound. Ooh. Ooh. I leave out your brain for too many time. And in this blind night, I'm a figure of fun. Ooh. Ooh. Down to the Hall, questa ballata. Ballata, sì. Stavo pensando, anche gli altri della band hanno la barba come te? No, sono tutti sbarbati, no. Ma la mia è pigrizia, non voglio tenere la barba, è solo pigrizia. No, perché non so se vedi, avrai notato, se prendi una rivista musicale, i nuovi gruppi americani, sembra che l'uso della lametta da barba sia... bandita. Bandita proprio, cioè ormai sembra di essere nel 1971, ci sono queste... No, dipende quando mi vedi, se mi vedi a inizio mese ho ancora la barba, verso fine mese poi mi sbarbo. Ah, c'è una cosa... Sì, sì, mi faccio la barba una volta al mese, quindi dipende quando uno mi vede. Ok, dicevi il discorso dell'autoproduzione, cioè alla fine in questo momento, per come vanno le cose in Italia, l'autoproduzione secondo te è la scelta più ragionevole per una giovane band, anche perché magari i costi chiaramente non sono più quelli di una volta, permettono di fare un prodotto professionalmente valido senza essere, diciamo, milionari. Ma per quanto riguarda la distribuzione, come lavorate, come fate? Purtroppo i dischi non si vendono, non si vendono o si vendono veramente poco. Noi come distribuzione siamo seguiti comunque dall'agenzia che ci segue nella promozione, da ufficio stampa, da promozione, la Bass Supreme. Il problema, cioè la nostra esperienza è che purtroppo i dischi si fanno fatica a vendere. È ovvio che un gruppo che ha maggior visibilità ha ovviamente più possibilità di vendere dischi, però ovviamente a questo gruppo vengono richieste anche altre cose, vengono richieste tournée, vengono richieste, cioè c'è un altro tipo di lavoro. Noi comunque siamo musicisti a tempo perso, abbiamo tutti i nostri lavori, lavoriamo le nostre 8 ore al giorno, ci troviamo in sala prove alla sera dalle 9 a mezzanotte, e a mezzanotte siamo veramente stanchi. E quindi per noi l'autoproduzione era anche un motivo d'orgoglio. Ci siamo guadagnati i nostri soldini a suon di concerti. Come fate con i concerti? Perché non deve essere facile. Al concerti ci arrangiamo come in tutto. Non abbiamo nessuno che ci organizza concerti. No, intendevo, visto che lavorate tutti quanti. Trovare... Ah, s'accettano concerti soprattutto ai fine settimana, e E poi dobbiamo essere disponibili tutti, non è facile, si fanno i salti mortali. Compagne comprensive. Ma quelle lo sono, perché gli piace la nostra musica, di conseguenza sono totalmente dedite alla band. Quello... Le prime fan. Sì, sì, assolutamente, sono le prime fan. Abbiamo incominciato con un concerto in cui abbiamo preso i nostri primi 50 euro, perché abbiamo suonato per 50 euro e ci capita anche di suonare per nulla. E con 10 persone, adesso ai nostri concerti ci sono 30, 40, 50 persone, dipende. Abbiamo avuto la fortuna di aprire dei gran bei concerti davanti a tanta gente, quelle sono sicuramente le occasioni migliori per farsi vedere, per far ascoltare la propria musica e anche per suonare in condizioni ideali, cioè con un impianto, con la musica che ti viene fuori. Sì, ecco, magari con un tecnico sì, di con alto tutto livello, quanto, insomma. C'è una gran differenza. È ovvio che noi siamo ancora, tra virgolette, un gruppo da localino, da clubettino piccolo, dove a volte i suoni te li devi fare tu. Il bassista si prende il jack lungo, va in mezzo alla sala e dice: sì ragazzi, suona bene. Cioè, ho visto molte ormai situazioni. Ormai siamo pronti a tutto, quindi... Ma guarda che una volta abbiamo avuto... Sì, è venuto anche ospite qua, un irlandese, parlo di tantissimi anni fa, un chitarrista che mi raccontò che aveva visto in un pub di Dublino una band di ragazzi giovani esordienti, erano in sette a guardarli, e la band si chiamava U2. Per cui sai, un po' tutti cominciano così. No, ma certo. È bello comunque noi a fare andare avanti in questa esperienza, ci sentiamo vivi. Siamo orgogliosissimi di avere sfornato i nostri 11 pezzi. Siamo felici come delle pasche quando ai nostri concerti riusciamo a vendere 4-5 dischi. Ci è capitato anche di strappare autografi, che per noi era una roba incredibile, però emozionante. Insomma, siamo persone che si emozionano ancora per le piccole cose, diciamo. Mi pare bello. E su questo cerchiamo anche di costruire le nostre canzoni. Andiamo con un altro brano, sempre dall'album Love Spoon, appunto il nome della band, si intitola Before You Go. radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. E questa era Before You Go, un brano molto anni 60, soprattutto l'uso delle tastiere estremamente garage rock. Sì, la volontà del riff della chitarra era un po'... secondo me, condizionata da Neil Young, nel senso, io personalmente ci vedo molto la parte elettrica di Neil Young. Poi sì, l'abbiamo infestato in modo positivo con la tastiera, con il Vox Continental che ha il chitarrista, che è l'altro chitarrista Matteo, che suona anche le tastiere, ed è venuto fuori questo bel intrigo, secondo me, tra il riff di chitarra e il riff di tastiera. Sì, anche questo mi ricordava un po' il primo disco di Green on Red, quello dove imperversava Chris Carcass. Esatto. Anche perché notavamo prima, insomma, la tua voce in certi momenti ricorda quella di Dan Stewart, nel senso, grazie. Un po' quel tono di acido quando tiri su, che fa molto appunto garage rock. Ma parlando di anni 60, il nome Love Spoon, sì, ha a che fare con i Loving Spoonful o no? No, assolutamente. Love Spoon deriva, è proprio una parola presa così, ed è una tradizione gallese molto antica, in cui praticamente il ragazzo che corteggiava una ragazza doveva intagliare da solo un cucchiaio di legno e regalarlo alla famiglia della ragazza, e questa era un po' la porta per poter frequentare, l'aprire la porta per poter frequentare poi quella ragazza. Quindi fondamentalmente... Quindi, se tu andavi a casa di questi che avevano 15 cucchiai... Questa ragazza qua aveva già avuto parecchie richieste. E quindi a noi piaceva molto la cosa simbolica, nel senso che noi ci consideriamo singoli intagliatori delle nostre canzoni, e quindi volevamo prendere un po' quella fase del corteggiamento... che c'era in questa tradizione gallese. Poi, vabbè, tutte le altre cose ci sembrava suonasse molto bene. Sì, facile da ricordare. Ed è stato anche preso per caso, perché come tantissime band ci siamo trovati in un momento in cui, oh ragazzi, abbiamo 4-5 pezzi, vorrei scegliere il nome, nome qua, nome là, il nome non usciva. Io che mi stavo facendo un piccolo ripasso di inglese perché ne ho bisogno, lessi di questa parola, andai a vedere. E quindi niente, da lì è nato tutto, è piaciuto agli altri, è stata approvata, e da lì è nato il nome. Siamo concorrenti di un gelato, perché c'è un gelato che si chiama Laspoon, non so se... Dov'è? In che paese? Penso in Inghilterra sia il produttore, non so esattamente, non mi sono mai voluto informare. Perché vedo che il sito internet è lovespoonband.com. Band, perché Laspoon, il monopolio ce l'ha il gelato. È vero che, insomma, il cucchiaio dell'amore per un gelato, sì, no, se vendono molte coppette, ci sta anche bene. Peraltro, insomma, tu sai che i Rolling Stones hanno forse uno dei più bei nomi della storia del rock, ed è nato per purissimo caso, cioè proprio la storia, beh, per chi non la sapesse, cioè in tutti i libri, Keith Richards stava trovando il loro primo concerto, e il proprietario del locale gli chiese: ma come si chiama la band? E lui si rese conto che non avevano un nome, però aveva sotto mano il disco di Muddy Waters, appunto Rolling Stone, e dice, beh, l'ha visto lì, ha detto: siamo i Rolling Stones. Che, vabbè, se è vera, è grandiosa; se non è vera, se l'ha inventata molto bene, perché parliamo di Keith Richards, insomma, non... è un affabulatore notevole, però magari è successo davvero così. C'è da dire che all'epoca c'erano molti nomi liberi ancora, no? Eh sì. C'erano molti nomi liberi, adesso ce ne sono molto di meno. Non ci volevamo mettere davanti quel maledetto te, e di conseguenza l'osmo suona molto bene. E anche tutta la gente: oh ragazzi, che bel nome che avete scelto, tutto quanto. Sembrano quasi più interessati al nome che alla band a volte, quindi dico, ma... Beh, anche molto memorizzabile, insomma, dal punto di vista della comunicazione. Adesso dovete sperare che fallisca la fabbrica di gelati. Così, sì, ma siamo lì, anche... ogni tanto ci diamo un'occhiatina come vanno. Però potete prendere lovespoon.it, ad esempio. Ma adesso lo prenderemo. Visto che stiamo parlando di internet, c'è modo di comprare il disco online? C'è modo di comprarlo, si trova ovunque, anche su Amazon, su Audible, su tutti i negozi che ci sono su internet si trova. In più abbiamo la nostra botteghina personale direttamente sul sito, facilissimo acquistarlo, o se no fare qualche chilometro e venire a vedere il nostro concerto. Io dico sempre, anche quando, non solo quando ci sono i musicisti, se ai nostri ascoltatori, dico sempre, se volete comprare il disco appunto di una band indipendente così, cercate di comprare i concerti o direttamente sul sito della band, per una volgarissima questione finanziaria, insomma, cioè sì, tutti i soldi vanno a chi ha fatto il disco, e visto appunto i tempi duri, se volete anche avere la possibilità poi di sentire un altro disco degli stessi musicisti, per dirla proprio terra a terra, è importante che abbiano il supporto dei fan, non solo il supporto con gli applausi, ma anche un po' finanziario, perché purtroppo in questo mondo tutto ha un costo, tutto ha un prezzo. E sante parole. No, devo dire una cosa. Finché ero soltanto uno che ascoltava i dischi, dopo quando cominci a frequentare i musicisti e a conoscerli, vedi le cose un po' con un altro occhio, insomma, ci si rende conto che a volte dietro un disco c'è sudore, sangue, ci sono tanti sacrifici, e quindi va rispettato anche per questo motivo, insomma. E totale, infatti i musicisti che vanno ai concerti degli altri sono sempre i primi a comprare il disco della band che vanno a vedere, sempre. Io ho venduto il mio disco a tantissimi musicisti più o meno famosi, musicisti intendo anche un singolo, un ragazzo che suona la chitarra, per me comunque è un musicista, è un ragazzo che crede, ha una sua storia, ha una sua storia musicale, e ne abbiamo venduti tanti a quelle persone lì. Questo, che fra l'altro è anche un bel riconoscimento, perché insomma generalmente si tratta di un pubblico diciamo un po' più acculturato, ecco, vogliamo dire, sì, sì, assolutamente, senza togliere niente agli altri, però. Ma poi è bellissimo vendere i dischi così, perché comunque nell'attimo in cui tu dai il disco, loro ti danno i soldi, però passano tantissime cose. Lui ti chiede, ti fa i complimenti per il concerto, ti chiede qualcosa della band, ti incuriosisce, ti dice la sua. Sono cose molto belle, per me è bellissimo il post concerto, quando puoi veramente parlare, perché noi siamo ancora in una realtà in cui veramente puoi parlare con tutti quelli che ci sono lì, ed è bello parlare della propria musica, vedere che c'è qualcuno che ha voglia di parlare della tua musica, come stiamo facendo poi anche stasera. Per me è un'occasione speciale questa, non capita tutte le sere di essere chiamati e in un posto a far sentire la tua musica in radio, sia a livello acustico che a livello di disco. Beh, e parlare della propria musica, quindi questo è il nostro punto di forza, insomma, una cosa di cui andiamo molto orgogliosi. Visto che siamo sull'argomento, direi che puoi riprendere in mano lo strumento, la chitarra, e se ci annunci anche la canzone. La canzone faccio Naked for You, nudo per te. Anche questa parla di momenti, diciamo, non troppo sereni. È un nudo metaforico, diciamo. Nudo metaforico, assolutamente. Assolutamente sì. Di momenti non troppo... Comunque siamo in radio, non si vedrebbe niente, però... Sereni di una storia tra, ovviamente, una ragazza e una ragazza, tra una storia d'amore, ecco. Ok. Rock Wave, l'onda del rock. To bring him along. Ooh. You light in my bed. We sparkly night. Questa era Naked for You, era una versione naked, era la versione nuda, diciamo, del brano, che sul disco è abbastanza diverso. Sì, sì, assolutamente. E dentro il CD avete messo questo foglietto che riporta una frase di Giancarlo Susanna. Giancarlo Susanna è uno dei musicisti, dei giornalisti musicali che da più tempo seguiamo, direi un percorso professionale il suo veramente inappuntabile. È anche uno che non è mai, ha lavorato anche in Rai, insomma, su varie riviste, ma è anche uno che ha avuto una carriera probabilmente non brillante come sarebbe potuta essere dal punto di vista, diciamo, finanziario, perché è uno che non scende molto a compromessi, cioè è un giornalista, infatti è uno dei pochi giornalisti dei quali mi fido, nel senso che i dischi si possono comprare a occhi chiusi quando ne parla bene Giancarlo, perché mentre in altri casi, insomma, bisogna sempre fare una certa, come dire, tara. Allora leggo questa frase che Giancarlo Susanna ha scritto su di voi. Mi occupo di popular music e di rock indipendente in particolare da molti anni, ma raramente mi è capitato di incontrare una band appassionata e brillante come Love Spoon, capace più per istinto che per freddo studio tecnico di utilizzare al meglio la forma canzone. Può capitare a chiunque tra musicisti addetti ai lavori di avvertire stanchezza e pessimismo, ma queste sensazioni negative svaniscono anche soltanto sapendo che in giro per il nostro bizzarro paese ci sono dei ragazzi così bravi, determinati ed entusiasti. Insomma, ripeto, questo è Giancarlo Susanna, quindi posso escludere che l'abbiate pagato da scriverlo. Assolutamente. No, è stato bellissimo anche... Io, Giancarlo Susanna, l'ho visto in foto. Io l'ho conosciuto di persona. L'ho sentito per telefono. Lui si arrabbiò come... Ma ragazzi, ma sto disco dovete farlo uscire. Cioè, diventa vecchio, dovete fare un altro dopo. Cioè, è inutile che teniate lì quelle canzoni. Voi gli avete mandato un demo? Ma tutto nacque perché tramite ovviamente Facebook, che adesso diciamo è l'arma tra virgolette migliore, più diretta per tante cose, noi ovviamente misimo due o tre pezzi sul classico MySpace e anche sul Facebook, e lui probabilmente li ascoltò e mi mandò un messaggio chiedendomi da cosa eravamo ispirati, che cosa facevamo, se avevamo già fatto qualcosa oltre quello che aveva sentito. E io lì appunto mi misi veramente a nudo a lui, nel senso che gli scrissi una cosa lunghissima su come era nato il nostro gruppo, non conoscendo io in quel momento in cui gli scrissi, non sapevo che Giancarlo Susanna fosse neanche un giornalista, nessuno, una persona X interessata che aveva ascoltato. Poi dopo ne parlai in modo così tranquillo con i miei amici, mi disse: ma come, guarda che Giancarlo Susanna è quello che ha fatto Stereonotte per una vita. E quindi poi gli riscrissi dicendo: ma scusami, guarda che io adesso ti ho scritto tutte queste cose, non volevo annoiarti con... perché mi sfogai, fu più uno sfogo il mio, perché non è facile far ascoltare la propria musica all'etichetta, alla gente del mestiere. Noi purtroppo le energie sono quelle che sono per poter proporre quello che abbiamo, perché purtroppo la nostra vita, il nostro tempo è occupato anche da tantissime altre cose, come lo è quello dei maggior parte dei musicisti italiani, sì, cioè, sì, non siamo solo noi che quindi e quindi niente, da lì ci riscrissimo, lui si impegnò, lui fu a parlarci e dirci: ma un'etichetta, però posso provare a trovarvela anch'io. Si impegnò proprio, voleva che uscisse questo disco e tutto quanto. Poi ovviamente le cose si raffreddarono, perché noi fecimo il disco, ci teniamo sempre in contatto, e fu sua volontà proprio, e noi figuriamoci, per noi era un estremo piacere, un onore avere due parole sul nostro disco, e se poteva fare praticamente scrivere due righe sul nostro disco, lo fece. Secondo me sono, a parte che sono scritte benissimo quelle parole lì, quelle frasi lì, ma racchiudono veramente quello che secondo me noi siamo. Di recensione ne abbiamo avute tantissime, bellissime, di quelle più tecniche, di quelle meno tecniche, però se vogliamo racchiudere tutto quello che fondamentalmente siamo, secondo me sono proprio quelle parole lì. Io avevo un po' paura di leggere quello che scriveva, non perché avessi paura che scrivesse una cosa un po' troppo... ha scritto una cosa molto affettuosa, e quello a me è piaciuto molto. L'ho ringraziato, mi ero ripromesso che gli avrei portato il disco di persona a casa sua, poi purtroppo le cose della vita vanno anche diversamente e non ce l'ho fatta, gliel'ho spedito. Adesso è un po' che non ci sentiamo, però è stato veramente ci ha regalato secondo me parte anche della sua energia per andare avanti in questo progetto. Saremo ovviamente andati avanti comunque, però ci ha regalato delle belle emozioni Giancarlo Susanna. Sì, ripeto, è uno dei pochi che fra l'altro appunto hanno un percorso, sto per dire artistico, ma percorso professionale inappuntabile. Fra l'altro credo che sia stato il primo in Italia a scrivere di Jeff Buckley, quando prima ancora che uscisse Live at Sydney, proprio tanto per dire infatti quando dico che sono onorato, sono veramente onorato, veramente. Sicuramente siamo onorati, sì, ne avete ben d'onde. Torniamo all'album, e il brano che ci ascoltiamo si intitola I'll Find My Home. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Sono le 22 e 29, scusate, le 23 e 29, abbiamo sempre l'ora della BBC qua. State ascoltando Rock Wave, siamo in diretta qui in studio con Giovanni Sgarbi, diciamolo il cognome, insomma, diciamo, è un cognome controverso, ma anche abbastanza diffuso credo dalle vostre parti, non è un cognome. Ma sì. Qui in rappresentanza della sua band, i Love Spoon. L'album, vi ricordo, si intitola semplicemente Love Spoon, abbiamo già detto, magari poi lo ripeteremo anche dove è possibile procurarselo. Il disco sono 11 canzoni, mezz'ora, quindi anche questo è molto un richiamo al, forse ecco, le tue radici punk riemergono in questo, il fatto che tendi a condensare, a tenere la canzone breve, quindi probabilmente anche il tuo modo di scrivere è nato così e continua a esprimersi in questa maniera. Sì, diciamo che io a livello artistico sono sempre stato il chitarrista di una band, quindi suonavo riff, suonavo le canzoni, cercavo di lavorarle e farle suonare bene con la mia chitarra, ma a livello proprio cantautoriale e di creare canzoni ci ho sempre lavorato molto poco e ho cominciato a lavorarci proprio con questo disco. Queste sono le mie prime canzoni. Arrivate un po' tardi, però sono le prime canzoni. Ho sempre suonato tantissimo con l'elettrica e ho sempre perso poco tempo, perso tra virgolette, in camera mia con l'acustica a dilettarmi. E poi da cosa nasce cosa, ho incominciato ad interessarmi alla costruzione della canzone, a metterci il testo e tutto quanto, e quindi poi nascono le cose, nasce l'impegno e la volontà nel fare quelle cose. A volte ci si riesce, a volte le cose sono facili, vengono subito, altre volte ci devi lavorare un sacco, però è molto affascinante perché nei momenti più strani ti balenano delle idee, non puoi neanche prendere in mano la chitarra, devi ricordarti quell'idea, non sai neanche come fare, e poi finalmente arrivi sul tuo divano col tuo registratorino, la fai, ci lavori, ti bevi una birra. I momenti più belli, io dico sempre coi ragazzi, con gli altri ragazzi del gruppo, coi quali purtroppo riusciamo a trovarci una volta a settimana, perché di più non riusciamo a fare. E questo sì è il momento importantissimo delle prove, però la mia vita per il gruppo è fatta di tantissimi altri momenti, ma la mia come quella anche degli altri ragazzi è fatta di tantissimi altri momenti, perché ci penso in continuazione, ho questa idea, i pezzi su cui stiamo lavorando adesso, che sono pezzi nuovi, sono pezzi che io sto covando da 2 anni e poi li rimetto in gioco. Non è facile, e io sono, tra virgolette, un novellino in questa cosa qua. Però sono molto contento di come la sto facendo, di come la stiamo affrontando col gruppo. Secondo me è una nota di merito nei nostri confronti, perché ci sono persone che mi dicono: ma avresti potuto fare i tuoi pezzi da solo, andavi in giro con la tua chitarra acustica, i pezzi suonano bene, sono ascoltabili. No, io mi sento, non è una questione di sentirsi spogli, nel senso, non c'ho un'altra chitarra, non c'ho l'ossessione ritmica. No, io so che quando porto la canzone sulla prova non è compiuta, deve passare attraverso e deve essere filtrata e rielaborata dalle persone di cui mi fido di più e con cui mi sento più in sintonia, e questi sono esattamente quelle persone lì. Diciamo che da un certo punto di vista suonare da solo logisticamente e finanziariamente sarebbe molto più semplice, è una soluzione che è un ripiego che molti fanno, perché appunto con la situazione che c'è in giro con i locali eccetera, sì, indubbiamente, dicono che sia più facile. Beh, o meglio, poi magari si trova più facilmente la data se sia la band che fa anche un po' di rumore, ma ti danno gli stessi soldi che se vai da solo o quasi, per cui da quello che sento, insomma. Beh, noi nella nostra vita di gruppo non abbiamo mai pensato di tenerci qualcosa per il singolo, cioè ragazzi, questo è il cachet, dividiamolo e mai, tutto va per il lavoro che sarà. Sì. Mai balenato. Strumentazioni. Fare un disco costa. Fare un disco, perché fare un disco non vuol dire registrare, vuol dire anche promuoverlo costa, e deve essere promosso un disco. Cioè, se tu sei un artista e vuoi un minimo, avere un minimo di riscontro, sì, devi suonare in giro, ma non suoni in giro se il disco non viene promosso. Ormai i locali, le band sono tante, c'è molta concorrenza, ci sono molte band valide, e secondo me ci sono pochi locali anche attrezzati ad ospitare queste band. Quindi è un po' un rincorrersi per cercare di crearsi quei piccoli spazi. Noi facciamo i salti mortali quando riusciamo a infilare due date consecutive. Poi dopo mi vedo i super tour che fanno le band e dico, però va bene così, noi siamo contenti della nostra musica e del pubblico che abbiamo. Ottimo. Direi, puoi cantarci un altro brano? Se volete vi faccio un brano nuovo che non ho mai suonato. Non ho mai suonato dal vivo e non ho mai suonato in radio. È una roba che anche la band ha sentito poco. È ancora in costruzione, se volete ve lo posso. Ma giusto, così fai come se fosse a casa tua. Ho piacere di farlo, verrà come verrà. Questo è un pezzo che ha un nome preciso, si chiama Bianca, e Bianca è un nome di una persona che è stata a me molto cara. Ma è in italiano? No. Ah. No, tutto in inglese. E niente, questo quindi è dedicato comunque a questa persona. Bene, allora ce l'ascoltiamo dal vivo qui su Blu Radio Veneto. Sound of wind while around you, while flowers sing. In a summer night, now I close my eyes to make my first last time. Allora, questa era Bianca, anteprima, di cui ti ringraziamo, una bellissima melodia, devo dire. Questa cosa dell'inglese mi fa un po' pensare, perché per ragioni anagrafiche ho seguito, diciamo, quello che una volta si chiamava il nuovo rock italiano. È stato un periodo in cui tutte le band cantavano in inglese, poi di colpo hanno cominciato a cantare tutti in italiano. Adesso, negli ultimi tempi, anche molti musicisti che abbiamo avuto qui ospiti preferiscono l'inglese. In certi casi è proprio una questione di genere musicale, pare, perché magari c'è gente che suona un rock americano, diciamo blue collar rock alla Springsteen, eccetera, che quindi tende a essere più inglese. Ma nel vostro caso c'è una ragione specifica o è venuto fuori? No, io sono sempre stato molto dibattuto sul cantare in italiano e cantare in inglese, nel senso che per un sacco di tempo ho pensato che per essere il più vero possibile in quello che volevo raccontare, volevo dire, dovevo cantare per forza in italiano. Uno, perché è la mia lingua, è la lingua con la quale tento di esprimermi, e in più anche perché la mia conoscenza dell'inglese, diciamo, è abbastanza basilare, di conseguenza non è facile, anche perché io ho pensato sempre alle mie canzoni come a dei gettiti, cioè scrivi, suoni, ti viene l'idea, scrivi, fai, butta immagini, butta colori, butta parole, butta quello che vuoi, poi le puoi ridistribuire, fare, vedere, lavorarci sopra, però deve essere un gettito. E quindi ho sempre avuto la paura di perdere un po' di autenticità nel cantare in inglese. Poi però è stata proprio un'esigenza la mia, e io le mie canzoni le vedo cantate in inglese. Il fatto di aver visto tanti concerti di gruppi che mi hanno influenzato cantati in inglese, per quanto magari il mio inglese non possa essere ovviamente perfetto come il loro, però io penso che le nostre canzoni abbiano talmente la necessità di un cantato inglese che non riesco a vedere altrimenti. So di molte band che, tra l'altro, con risultati ottimi, hanno anche nel giro di 1-2 anni fatto dischi in inglese e poi dischi in italiano, indipendentemente da tutto questo percorso che è avvenuto negli anni. E quindi non rinnego né una né l'altra, e non chiudo assolutamente le porte a... Però adesso quello che esce sono parole che ovviamente devono essere più elaborate, perché comunque fare un testo in inglese, per quanto mi riguarda, richiede anche delle successive correzioni e quindi arrivare poi a dei crocevia nei quali dici: cavolo, devo cambiare questa parola, devo cambiare questa frase. Non è facile, per ora combatto per questo, poi si vedrà. Vedremo il futuro cosa ci porterà. Intanto il futuro, quello proprio immediato, ci porta un'altra canzone dei Love Spoon, che si intitola Morgan Le Fay. Rock Wave, l'onda del rock. Allora, questo brano era Broken Frame, abbiamo ancora circa un quarto d'ora, ascolteremo ancora un paio di canzoni prima di chiudere, ma volevo intanto chiederti qualcosa sui programmi futuri della band. Come dicevi, queste canzoni qua del disco sono ormai per voi... Sì, hanno avuto anche una gestazione abbastanza lunga. Noi in realtà, quando già appena uscì questo disco, avevamo già altre canzoni con le quali stavamo lavorando, che sono maturate, e qualcheduna la facciamo già anche nei nostri live. Stiamo lavorando a alcuni altri pezzi per terminare, diciamo, la tracklist del disco nuovo, che non tarderà sicuramente. Stiamo già prendendo accordi per registrare. La registrazione sarà il solito nostro live in studio, perché noi registriamo così, tutti e quattro in studio, si attaccano gli strumenti e si suona. Buona la prima, se non la prima la seconda. E quindi niente, l'idea è quella di dare seguito a quello che di buono comunque abbiamo ottenuto, perché qualche fan ce lo siamo fatto, abbiamo avuto l'attenzione di persone in gamba, e questo ci ha fatto molto piacere. Di conseguenza non vediamo l'ora di far sentire il materiale nuovo che è molto ancora più della band, nel senso che quando ci siamo trovati con questi pezzi di questo disco, molti pezzi erano proprio già strutturati in acustico, e di conseguenza si è rielaborato, lavorato sulle canzoni. Queste invece, in parte alcune, hanno avuto la stessa vita di questo disco, altre invece sono state proprio strutturate dalla band. Siamo tutti maturati assieme in questo progetto, e di conseguenza è giusto così. Stilisticamente comunque resterete su questa strada? Sì, siamo sempre gli stessi. Okay. Avendo soltanto 11 brani in repertorio, nei live facevate delle cover anche? Diciamo che tenevamo un pizzico più lungo, considerandoci anche tra virgolette un gruppo pop psichedelico, tenevamo un pizzico più lunghi i nostri pezzi, li rielaboravamo in modo un pochino più lungo, diciamo. E poi sì, facciamo qualche cover, facciamo cover Tante Letter dei Box Top di Chilton. Sì, Chilton. Quello non riusciamo a non farlo, lo facciamo sempre. E poi facciamo qualche cover, sì, ne abbiamo sempre fatte. No, ma ero curioso di sapere quali, perché poi è una mia curiosità. Facciamo San Francisco Bay Blues di Eric Clapton, ma poi è di un vecchio bluesman. Facciamo quella di Chilton, poi dopo, vabbè, facevamo qualcosa di Beatles, abbiamo provato, poi sinceramente live non le abbiamo dopo mai fatte, le facciamo più in sala prove, cose così, ma abbiamo sempre lavorato molto sui nostri pezzi, perché il tempo è veramente poco, di idee ne abbiamo tante, di conseguenza stiamo su quelle, diciamo. Cioè, mi chiedevo appunto se dal vivo facevate magari qualche coda strumentale ogni tanto. Solo strumentale? Ancora no, ma ci stiamo lavorando. No, perché pensavo, in un disco così, con tutti i pezzi così brevi, sarebbe stato forse spiazzante se una sola canzone magari avesse avuto un finale strumentale di 3 minuti che stacca un po' così. No, ma è vero, ma infatti stiamo ricercando un po' quella cosa lì. E tra due pezzi nuovi assolutamente diciamo che c'è un intermezzo strumentale che soprattutto live è molto lungo. Ancora non avremo idea di come farlo su disco, sinceramente, perché è una cosa appunto un po' nuova per noi, perché siamo molto abituati alla canzone strofa ritornello, però live suona molto bene e dà molto risalto, secondo me, alla band che siamo. Quindi vedi, è un'esigenza dell'ascoltatore, ma è un'esigenza anche nostra, quindi... Ok, allora ci ascoltiamo l'ultimo estratto dall'album Love Spoon, sentito la Broken Frame, e poi torneremo in studio per i saluti e naturalmente per l'ultimo brano dal vivo. Mm-hmm. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. La gente balla ai vostri concerti. Sballicchia, poi dipende dai pezzi. Però no, perché questo è, cioè, sballicchia. Ci vedevo le ragazze in minigonna, magari optical, sai, anni 60, queste, soprattutto sul finale. Erano altri tempi quelli. Sì, ma però adesso questa tastiera si balla un po' di meno. Questa tastiera finale veramente mette l'energia nelle gambe. Sì, beh, questo pezzo è uno probabilmente dei più riusciti da un certo punto di vista, perché è proprio nato in sala prove ed è nato in un attimo. Eravamo lì in un momento di pausa e è uscito il riff e da lì lo si è semplicemente suonato, ed è semplice perché è strofa ritornello, punto e basta. La forza del pop è quella, esatto. Insomma, quindi, questo in effetti sarebbe stato considerato un pezzo pop un po' di anni fa, insomma. Sì, esatto. Per quanto la chitarra fosse piuttosto tagliente. Rappresenta anche un po' il nostro passato, nel senso che siamo tutti derivanti da band garage rock, e quello non è un classico esempio, penso. Sicuramente. Allora, facciamo un attimo il riassunto. Questa sera abbiamo avuto con noi Giovanni Sgarbi, cantante e... leader, cantante e chitarrista dei Love Spoon, qui in rappresentanza della band, naturalmente con la speranza di un giorno di conoscere anche gli altri, magari quando presenterete il nuovo disco, se si riesce a organizzare. Sì, faremo un salto più completo, una trasferta, così facciamo tremare un po' i muri del nostro studio. E vi ricordo che il loro album si può acquistare sui siti più noti, insomma, di vendite online, ma anche sul loro sito, che è lovespoonband.com, lovespoonband tutto attaccato. E voi siete anche su Facebook, hai detto? Siamo su Facebook, quindi basta cercare Lovespoon e veniamo fuori noi. Trova. Siamo sul classico MySpace, sempre lo Spoon Band, e siamo ovunque, insomma. Non so, avete in programma concerti nella nostra zona al momento o no? Direi proprio di no. Direi proprio di no. Peccato, sì. Prima o poi succederà. E allora, sono le 23:55. Vi ricordo che avete ascoltato Rock Wave, l'appuntamento col rock di Blu Radio Veneto. L'appuntamento di tutte le sere, da lunedì al venerdì, dalle 22:30 alle 24. E adesso, come è la nostra tradizione, il programma si chiuderà con un ultimo pezzo che Giovanni ci suonerà qui dal vivo. E non so di che pezzo si tratta, quindi questo di My Arms faccio, lo improvviserò un attimo perché me ne ero preparati quattro, però in acustico farò questo, dai. Si fa, allora in My Arms è il brano con cui chiudiamo questo appuntamento con Rockwave. Io ti ringrazio molto di essere stato con noi, Giovanni, è stato un piacere. Grazie a voi e un abbraccio a tutti i ragazzi che magari ci stanno ascoltando, anche i nostri amici, da parte mia e da parte di tutta la band che non è potuta essere qua stasera. E ricordo anche che, come normale per i nostri appuntamenti live, nel giro di un paio di giorni sarà disponibile la trasmissione in podcast per chi la volesse riascoltare o per chi l'avesse persa, insomma, si può sempre recuperare. Vi lascio con la voce di Giovanni, In My Arms. Buonanotte a tutti da Stefano Dainese e grazie ancora a te per essere stato con noi. Grazie a voi. Don't have a time to stumble on me. Ooh. Oh, and the wind, why you hold too bad a deal? Ooh. I might play some bleeding for you. I can only win the sunset of my heart. I'm falling in my bed, there is nothing left here. Ooh. seen so far away the sun, the moon, the star. Ooh. In a lonely time, my memory have a voice. When another girl we know was adored, I don't know if I got skin of my arm. I don't know if I got skin of my arm.